Perché dobbiamo avere paura? Mi chiese la mia vicina, che non era né atea né religiosa. Il giorno prima era arrivato nel Modenese un terremoto di magnitudo 6, facendo crollare varie case, chiese, monumenti e capannoni, producendo vari morti tra la popolazione, creando una comprensibile esplosione di paura tra la gente. Non si parlava di altro. Come si dice, la lingua batte dove il dente duole. La reazione della gente religiosa non era da meno, ma era ed è tuttora varia. Alcuni vedono la fine del mondo vicina. Un atteggiamento, questo, di religiosi fanatici che parlano di Dio senza nessuna cognizione di causa e solo in relazione a disastri ambientali o umani. Ne parlano tanto per parlare, perché hanno una bocca. Sono come uccelli di malaugurio. Persone dalle quali è bene starsene lontano se non si vuole essere invasi da fanatismo religioso che allontana anche chi seriamente cerca Dio. C. È chi cita la Bibbia per dire che ormai il ritorno di Cristo è vicino. Queste persone sono più informate di altre in merito ai terremoti, perché Gesù ha detto che prima del suo ritorno ci sarebbero stati terremoti in vari luoghi, aggiungendo poi: ma tutto questo non sarebbe stato che principio di dolori. Dunque, preso alla lettera, Gesù non ha detto che i terremoti avrebbero annunciato il suo ritorno, ma che sarebbero stati il principio di tante altre sofferenze. E poiché di terremoti ce ne sono sempre stati e sempre ci saranno, essi non annunciano il ritorno di Cristo, ma di essere mezzi di sofferenza, come del resto altre calamità. Tornadi, alluvioni, carestie e altro. Ecco perché è saggio parlare dei terremoti, non come occasioni per spaventare le persone, ma perché la giusta e appropriata conoscenza di una cosa rende meno paurosa la situazione. Infatti, spesso la conoscenza rende molto più sereno il nostro animo di fronte a cose avverse. A me, per esempio, i serpenti non piacciono per niente perché so che alcuni sono pericolosi, per questo quando li vedo non tento nessun approccio amichevole. Però, se sono sicuro, sicurissimo, che un serpente non è velenoso e anche mansueto, posso anche prenderlo in mano, se anche con un po' di ripugnanza. Per questo credo che un tema come quello dei terremoti possa aiutarci a vivere meglio. Non solo. Addirittura ad aiutare altri, che hanno paura. Hai mai notato che tuo figlio, quando cade, si volta per guardarti in faccia? Se hai l'espressione serena, il suo iniziale spavento sparisce. Così è dei terremoti. Se sei sereno, puoi rendere sereno altri. È vero che la Bibbia si riferisce varie volte a terremoti, ma per una cultura inesatta da noi acquisita. La nostra mente corre sempre ai terremoti descritti nel libro dell'Apocalisse. Una cosa priva di senso. Ma per spiegarlo bene, ricorro ad una barzelletta. Un uomo domanda ad un suo amico: hai sentito che nel 4014 ci sarà un violento terremoto? Davvero, risponde terrorizzato l'amico. No, no, ho sbagliato, si riprende il primo. Non sarà nel 4014, ma nel 5014. Meno male, risponde tutto sollevato il secondo. Avevo preso una paura. Così, avere paura dei terremoti, perché sono descritti nel libro dell'Apocalisse, scritto tra l'altro 2000 anni fa, non ha senso, perché prima di tali eventi dovranno verificarsi tanti episodi storici, le date dei quali sono difficilmente prevedibili. La cosa saggia, quindi, è conoscere bene ciò che è descritto profeticamente nella Bibbia in merito al futuro, per diventare consci di come le descrizioni profetiche riguardanti i terremoti preannuncino in realtà eventi ancora lontano da noi e acquisire così una ragione in più per essere sereni e fiduciosi. Sereni e fiduciosi, non terrorizzati o sgomentati, come pensano erroneamente alcuni. Ancora una volta, l'invito a leggere la Bibbia e studiarla attentamente non proviene da chi pensa si tratti di un dovere religioso o, peggio ancora, da uno spirito fanatico. semplicemente da chi suggerisce un modo concreto per conoscere meglio il presente e il futuro e godere così di tutto ciò che offre la vita. In effetti, a godere realmente la vita sono i cristiani ben istruiti e non coloro che si definiscono semplicemente cristiani. La mia vicina aveva ragione. Perché dobbiamo avere paura? Non dobbiamo avere paura dei terremoti descritti nella Bibbia, ma dobbiamo fare tutto il possibile per evitare le conseguenze dei terremoti. Questa cultura in Italia non è molto presente perché, come ha ben detto un geofisico intervistato in televisione, in Italia i terremoti che provocano gravissimi danni si verificano molto raramente, quasi ogni 50 anni, mentre in Giappone, una terra spessissimo scossa da terremoti violenti, la gente è molto più preparata a tale evento. Costruiscono case antisismiche per tutti e non solo per alcuni. Di tanto in tanto fanno delle prove generali di evacuazione. Tutto questo si svolge tanto normalmente come chi apre l'ombrello quando piove. Questa è vita. Questo è saper vivere. La domanda, perché dobbiamo avere paura dei terremoti, anche se apparentemente banale, ha suscitato in me alcuni interrogativi. È vero, paura di chi? Paura di perdere la vita? Se la si perde, non si fa in tempo ad aver paura, perciò la paura diventa inutile. Quando ho avuto un incidente di macchina nel quale un camioncino, cambiando corsia, mi ha investito, ho fatto appena in tempo di vederlo ma non ad avere paura. Mi sono svegliato in seguito sotto l'automezzo, ma ero tutto intero. Quindi, la paura non cambia le situazioni. Perché dobbiamo avere paura dei terremoti? Noi non dobbiamo avere paura dei terremoti, ma molto probabilmente abbiamo paura dei terremoti perché in quell'istante meno, che per noi dura un'infinità meno, proviamo la più completa incapacità di gestire il momento che stiamo vivendo. C. È un pericolo e non sai cosa fare. Vuoi scappare ma il più delle volte rimani bloccato. Vuoi rifugiarti da qualche parte ma non sai dove. Pensi ai tuoi cari, ma ti trovi peggio di chi, in pieno oceano, non sa nuotare e vede i propri familiari annegare. Impotente a salvarti e a salvare gli altri. Ti prende il panico, la paura, che si trasforma immediatamente in terrore e angoscia. Molti si mettono ad urlare, a piangere e, forse, è una buona cosa, una sorta di valvola di sfogo. E la pentola che bolle, ma non scoppia. Con il terremoto si ha paura, perché in un decimo di secondo scorrono davanti a te la tua vita, i tuoi affetti, i tuoi beni, che costituiscono la tua esistenza. E prendi coscienza di poter perdere tutto nella durata di un respiro. Forse è proprio questo a far paura. Che si debba lasciare questa terra, tutti lo sappiamo, che tu debba lasciare ogni cosa terrena e andare nella generazione di coloro che non ci sono più, nudo come sei nato, non è una novità, ma che tutto questo avvenga in un momento al quale non sei preparato e al quale devi sottostare con violenza, fa paura. Non sei preparato, è vero che non si è preparati a molte cose nella vita, ma al terremoto meno in una terra nella quale avviene raramente meno non si è proprio pronti, sia fisicamente sia psicologicamente. Abbiamo bisogno di essere istruiti adeguatamente, e la Bibbia, al di là di chi la crede oppure no, può venire incontro a questa lacuna, in modo che, al posto di una incomprensibile esplosione di paura, si ponga una comprensibile ragione di serenità e voglia di lottare. In effetti, se si guarda la storia dell'umanità, i veri cristiani hanno sempre dato avvio a movimenti umanitari, come per esempio, meno tanto per citarne uno, meno la Croce Rossa. Poiché il mio spirito è positivo, poiché io vedo meno per la grazia di Dio ogni cosa cooperare al bene, il terremoto mi ha insegnato e mi insegna tanto. Per prima cosa il terremoto mi prepara, come per tutti, alla realtà che la vita è sospesa a un filo e io non ne sono il padrone meno o gestore. Una verità, questa, che si assimila purtroppo dopo molto tempo, mentre dovrebbe essere imparata per prima. Ma, per la nostra natura umana, è così. In effetti, appena ci è possibile, noi impariamo a pianificare la nostra vita. Impariamo a confidare sulle nostre forze, perché vediamo che l'aiuto del prossimo non sempre arriva, e come si dice, chi fa per sé fa per tre. Senza renderci conto, il centro della nostra esistenza siamo noi a fare, siamo noi a aiutare, siamo sempre noi a essere in grado di fare. Il terremoto invece fa crollare proprio queste vecchie antiche idee, come le vecchie antiche chiese e monumenti. Perciò i terremoti sulla Terra mi evocano i terremoti morali e spirituali. E come il terremoto sulla Terra non lascia intatto il paesaggio, così il terremoto spirituale non lascia intatto l'animo, lo spirito, né il corpo di una persona. Se oggi io non sono più l'uomo di tanto tempo fa, è perché è avvenuto un vero terremoto nella mia vita. E, successo nel maggio del 1964, da allora tante altre scosse di terremoto provenienti da Dio hanno dato altri ritocchi al mio carattere. Da quel giorno non ho più osato a confidare sul mio discernimento, ho imparato a fidarmi di più di quello che Dio dice nella sua parola, che del mio giudizio. Ho iniziato a costruire la mia vita, avendo come pietra angolare Gesù Cristo, il che vuol dire che la mia vita religiosa e morale è fondata sul volere di Cristo e non su una religione o sull'etica sociale. Inoltre, il terremoto umano mi ha insegnato la necessità di essere sempre preparato ad andare alla presenza di Dio, e questo è possibile solo se i miei peccati sono già stati perdonati. E, poiché con il benedetto terremoto spirituale ho accettato il sacrificio di Cristo, compiuto sulla croce, come l'unico e solo valido per l'eternità a riconciliarmi con Dio, ora non temo più la morte, neppure se avviene mediante un terremoto terreno. Dice un detto popolare copiato dalla Bibbia: non tutti i mali vengono per nuocere. Che questo possa essere valevole per chiunque, soprattutto per chi subisce un terremoto. E allora la mia vicina ha ragione: perché avere paura dei terremoti? Dopo il terremoto nell'Emilia 2012, Ellero,